Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buongiorno a voi. Chi è per voi un buon medico? Giovane donna di 29 anni. Al primo attacco di un mese fa ha perso la capacità di parlare, farfugliava come un neonato. Progressivo deterioramento dello stato mentale. Visto? Con questo bastone mi scambiano per un paziente. Mettiti il camice bianco come tutti noi. Non voglio che pensino che sono un medico. Capisci perché la direzione contesta il tuo comportamento? La gente non vuole medici malati. Posso capirlo, a me non piacciono i pazienti sani. La donna di 29 anni... Quella che non parla, a volte è una fortuna. Tumore al cervello, morte certa, che barba. Buongiorno, c'è colica lì. Disturbi? Colica del fegato. Si tolga la giacca, si sdrai lì sopra. Grazie. E si tiri sulla maglietta. Che c'è? Fegato. Chi sei? C'è colica lì. Che prendi? Eparema. Va meglio? Ah, ecco, ripetere la cura due volte al giorno e non bere vino, ciao panzone. Eccola, va guarito. Chi è? Il professor Tucci. Ah, il professore violino, il violinista. Come va, professore? La lirica riprende? Ah, la lirica sì, sono io che non mi riprendo. Asma bronchiale. Sentire? Tossisci? Alt! Tossisci? Alt! Respira forte. Alt! Non respirare. Eccola, le lezioni le fai? Sì, un giorno sì, un giorno no. Quest'estate mare e sole, terapia solare. E per quel pinticarello in gola? Fai dalla barba. La barba? Cosa c'entra la barba? Eh sì, cari amici, oggi parliamo della relazione tra medico e paziente, una relazione che negli ultimi anni, negli ultimi tempi è cambiata, sta ancora cambiando, perché forse non ci sono più i medici di una volta. Intanto saluto il professor Giuseppe Remuzzi, coordinatore delle ricerche del Mario Negri di Bergamo, che è qui in studio con me. Buongiorno, professore. Buongiorno, buongiorno a voi. Sono cambiati i medici? I medici sono cambiati. Vediamo uno di quelli di una volta? Sì. Quello c'è... Nella morte di Ivan Illich di Tolstoi, vedete? Questo indica che nei vostri visceri accade qualcosa, ma se l'esame della tale e tal'altra cosa non confermasse, bisognerebbe supporre allora questo e quest'altro. E se si suppone questo e quest'altro, in tal caso si potrà fare così. A Ivan Illich importava una cosa sola: il suo stato era grave, sì o no? Una domanda quanto mai assurda. Ditemi, dottore, in generale questa malattia è grave oppure no? Il medico lo fissò severamente, con un occhio solo, attraverso gli occhiali, come a voler dire: accusato, se non state al vostro posto sarò costretto a farvi allontanare dall'aula. Vi ho già detto, signore, tutto quello che ritenevo utile e ragionevole che sapeste, rispose il dottore. Beh, sono cambiati. Da allora molti passi in avanti sono stati fatti. Sì, oggi è completamente diverso. A me è capitato di ricevere una lettera così: mio figlio ha avuto una diagnosi di ipertensione polmonare, soffre di reni, ho letto tanto, mi pare di aver capito che ci potrebbe essere un legame tra queste due malattie e lo hanno curato con un beta bloccante, varfarina, arginina. La pressione nell'arteria polmonare è tornata normale. È stato fortunato perché, mi pare da quello che ho letto, una risposta così favorevole a questi farmaci sia insolita. Adesso però sta di nuovo male, fatica a respirare, so che ci sono farmaci nuovi. Lei pensa si possa usare la prostaciclina per bocca? L'ultima spiaggia per il mio ragazzo potrebbe essere un antagonista di tipo A del recettore dell'endotelina. Pensa che possa servire al mio ragazzo o farà male? Sono anche preoccupata per mia figlia, 16 anni, è sempre stata bene, studia a Oxford. Se prendesse la pillola si ammalerebbe di reni? E se decidesse di avere figli in gravidanza potrebbe avere l'ipertensione polmonare? I pazienti sono molto preparati. Sì, sono molto. Questo non è uno scherzo, questa è una lettera vera che dà l'idea di come i pazienti sono preparati. Oggi degli ammalati vanno dal dottore dopo aver passato ore in internet a leggere tutto quello che c'è da leggere sulla sua malattia. E quindi dobbiamo essere preparati a degli ammalati che per fortuna sono informati e si informano. Voglio salutare Andrea Vitali, medico, scrittore, che è in linea con noi. Andrea, ciao. Buongiorno, ciao. Andrea, nel rapporto qualcosa sta cambiando, i medici stanno cercando di prendere le misure di fronte a questi pazienti che sono sempre più informati e per fortuna. Sì, devo dire per fortuna, cioè, nel caso citato dal professore devo dire che è un'informazione assolutamente precisa, puntualissima, che potrebbe anche mettere in difficoltà magari un medico di base come me, questo lo confesso senza nessuna vergogna. A fronte di pazienti informati così bene, esistono però anche dei pazienti che sono informati dalla vicina di casa o da quello che hanno incontrato in piazza. e che quindi consigliano in maniera sconsiderata questo o quell'esame, per cui a volte può capitare di non essere d'accordo col consiglio fornito dal paziente e di dover affrontare quindi una sorta di duello verbale per convincerlo che forse quella da lui indicata non è la strada giusta per arrivare a una diagnosi. Debbo dire che nella maggior parte, cioè il caso citato dal professore è un caso, vorrei dire, un caso limite, un caso difficile, eccetera, non è un caso che si deve, che si affronta quotidianamente, viva Dio, e quindi diventa il lavoro anche di spiegare magari l'iter giusto per arrivare a una conclusione, diventa molto più semplice, non così complicato. Ci stanno già arrivando sms al 349-238-6666, adesso tra poco sentiremo Francesco e Claudio che ci chiamano all'800-240024. Per me il buon medico è colui che spiega le cause, i rimedi e la prevenzione del problema che ci affligge, scrive Marco. Un altro ascoltatore mi scrive: il buon medico è quello che ascolta il nostro corpo che parla. E la relazione tra medico e paziente è stata indagata anche dalla ricerca. In linea con noi abbiamo il professor Pier Giorgio Strata, che è presidente dell'Istituto Nazionale Neuroscienze. Buongiorno professore, benvenuto. Buongiorno a tutti. Professore, io vorrei parlare di un lavoro del professor Benedetti, che lavora presso di voi, direttore del laboratorio che è stato definito dal New England il più importante al mondo per gli effetti sull'effetto placebo e sul dolore. Ha scritto un libro molto interessante, The Patient's Brains, che parla appunto della relazione tra medico e paziente indagata dalla ricerca per così decodificare proprio i meccanismi neurobiochimici che stanno alla base di questo incontro. Un incontro che si gioca tutto sin dai primi istanti. Il medico e il paziente si incontrano, i loro cervelli si scrutano, alcune aree cerebrali si attivano, alcuni neurotrasmettitori si liberano e a inizio quella relazione che, come gli studi dimostrano, sortirà effetti positivi o negativi molto maggiori di quello che si pensa. Professore, che cosa succede? Succede che la grande scoperta fatta già da 15 anni e che prosegue da parte del professor Fabrizio Benedetti ha dimostrato degli effetti chimici, cioè che il placebo non è qualche cosa che sta nell'aria, ma che sta dentro le nostre molecole e che comporta un'effettiva liberazione di sostanze analgesiche che sono naturalmente fisiologiche al solo colloquio col paziente. Cioè, se io dico a un paziente: questa pillola, vedi, la devi prendere molto forte, ti farà passare il mal di testa, eccetera, effettivamente non solo il paziente dice che il mal di testa è inferiore a quello che era prima, però si ha anche un aumento di sostanze che sono le endorfine nel sangue, quindi si dimostra che c'è un effetto fisico-chimico all'interno dell'organismo alla sola parola. In questo ultimo lavoro che è uscito su Nature Medicine pochi giorni fa, il professor Benedetti ha fatto un'altra grande scoperta, perché ha dimostrato che le vie analgesiche e fisiologiche sono due, forse ne esisteranno anche di più: una mediata dalle cosiddette endorfine, che sono la morfina fisiologica, con liberazione di endorfine, e l'altra con gli endocannabinoidi, che sono l'analogo della cannabis, che è naturalmente non fisiologica. Quindi lui ha potuto dimostrare che a seconda del colloquio, a seconda di quello che è la storia del paziente, si può liberare l'uno o l'altra molecola per ridurre effettivamente il dolore. Quindi la relazione con il paziente è quindi già di per sé una terapia, un effetto che va ad aggiungersi e a potenziare quello del trattamento. Certo, è una terapia che comporta la liberazione di molecole antidolorifiche. Professore, mi piace pensare alla relazione tra medico e paziente come ad una partita tennis. I due giocatori si divertono se ciascuno gioca la sua parte. Consigli per i medici, consigli per i pazienti? Il consiglio è che il rapporto è estremamente importante e oggi spesso in questi grandi ospedali viene un po' perso, perché il paziente viene un po' sballottato da un laboratorio all'altro con persone diverse, invece anche la stessa fiducia è importante, che il paziente riconosca nel medico che gli sta vicino una persona in cui crede. Mentre per il paziente anche noi dobbiamo essere in qualche modo aiutati a gestire meglio questa relazione. Certamente. Professore, io la ringrazio per essere stato con noi e complimenti per questi studi che mettono così, fanno luce su questa relazione essenziale, perché dei medici ne faremo volentieri a meno, ma prima o poi ci tocca incontrarli, essenziale per la nostra salute. Grazie e buona giornata, professore. Arrivederci, grazie a voi, buongiorno. Una grande parte di quello che i medici sanno è insegnato loro dai malati. Marcel Proust. Ai medici in ascolto, cosa avete imparato dai vostri pazienti? Ai pazienti come me, cosa pensate di aver insegnato al vostro medico curante? Andrea, che ti sembra di questa relazione medico-paziente studiata anche dalla ricerca? Ma guarda, io riconosco l'assoluta verità di ciò che ha detto il professore, perché, e mi baso su un fatto di banale quotidianità, il paziente che fa gli esami del sangue e che se li guarda prima di venire in ambulatorio e che magari interpreta male un dato facendo riferimento ai valori minimi e massimi, quando tu gli dici no, che quel dato è giusto, quel dato che lui aveva creduto sballato invece è giusto, segue un sospiro di sollievo e una frase che suona più o meno: mi avete tolto un peso dallo stomaco. Quindi è assolutamente vero che una buona notizia sviluppa poi una reazione biochimica che porta a un rilassamento e a una riduzione quindi della percezione di malattia, di dolore, di disagio da parte del paziente. È fondamentale ovviamente che ci sia un rapporto, diciamo, di interpersonale, di relazione, di parola, di ascolto da parte del medico e di ascolto anche da parte del paziente. Io voglio che i miei ascoltatori possano intervenire, perché abbiamo due medici in onda, abbiamo bisogno anche della controparte, dei pazienti. Claudio, dalla provincia di Brescia, buongiorno, 800 24 00 24. Buongiorno. Buongiorno a lei. Buongiorno, è un piacere intervenire perché ascolto sempre la sua trasmissione. Sì, io, come dicevo prima alla signora che mi ha risposto, ho 49 anni e mi sto lavorando in psicologia, non ho sempre la mia ormai matura età. La questione del medico-paziente è antichissima. Io credo che nei tempi di Ippocrate fossero messi molto meglio i medici, fosse meglio il rapporto medico-paziente, che non voglio essere molto breve comunque. In psichiatria c'è questo famoso DSM, che è un manuale diagnostico in cui un paziente viene inquadrato non in quanto persona, ma in quanto ai sintomi che presenta, no? Sì. E il rischio che il paziente diventi un file oppure una cartella di file, c'è anche nella medicina o degli amici medici, purtroppo è tutto troppo informatizzato. Il fatto di continuare a enfatizzare questo ruolo dell'informatica avrà sicuramente i vantaggi, ma... Però, ma Claudio dice, professor Remuzzi, lei che ne pensa? Ma io vorrei che mettessimo in chiaro una cosa. La cosa più importante è avere dei medici competenti che conoscano bene la letteratura e che sappiano bene quello che fanno. Questa è la cosa più importante. Stiamo parlando di rapporto medico-paziente, questo è certamente fondamentale. Finora abbiamo sentito delle cose bellissime, però... Non dimentichiamoci che tra un chirurgo bravo e competente e che sia scontroso tipo Dr. House e un chirurgo gentilissimo, bravissimo nel liberare tutte le endorfine, ma che non fa l'intervento a regola d'arte, è molto meglio il primo. Quanto all'informatica, l'informatica è uno strumento che ha cambiato completamente il modo di curare le malattie. Noi abbiamo adesso davanti un ammalato e se abbiamo un programma giusto e la capacità di averci lavorato noi su quel programma lì, riusciamo contemporaneamente a sapere che cosa ha quell'ammalato lì, ma che cosa hanno avuto i 600 malati prima che hanno avuto la stessa malattia e sono stati curati da noi o da altri in un modo piuttosto che in un altro, confrontando vari trattamenti. Quindi l'informatica alla medicina sta come l'informatica a far partire un aereo. Avete mai visto un aereo che parte senza informatica? Quindi l'informatica è tutto in medicina in questo momento. Questo non vuol dire che uno debba curare il computer e non guardare l'ammalato, però stiamo molto attenti agli slogan, alle cose dette per dire, senza conoscenze, senza sapere esattamente quali sono gli strumenti su cui noi possiamo contare, che sono molto belli, molto nuovi, straordinari e ci consentono di fare cose che qualche tempo fa non si potevano neanche immaginare. Qualche tempo fa i medici curavano gli ammalati ricordandosi che una certa cosa aveva fatto bene a un altro, ma questo era un modo molto primitivo di curare le malattie. Dottore! Mi sento sempre fuori posto, come un applauso fuori tempo, come una suola in mezzo al bosco. Sono andato dal mio medico. È bravo, ma è sempre così di fretta. Non mi lascia parlare, minimizza sempre. Mi fa sentire un malato immaginario. Poi, quando deve spiegarmi qualcosa, usa delle parole. Il mio mi va bene così. È cordiale, ma non fa l'amicone. È professionale, ma non troppo tecnico. Insomma, mi piace. Ma me lo sono un po' lavorato. Ognuno ha il medico che si merita, o no? Per poi ricominciare, se nel frattempo fosse così gentile da darmi con una certa velocità. Un ansiolitico, un antibiotico. I medici oggi pensano più ai farmaci che ai pazienti, mi scrive un ascoltatore da Albano. Hanno perso l'abitudine di ascoltare, più facile ordinare che ragionare, esperienza vissuta. Andrea, ognuno ha il medico che si merita, secondo te? Ma guarda, ognuno ha la possibilità di scegliersi il medico, per cui è possibile che ognuno abbia il medico che si merita. Io di fronte a queste obiezioni sì, le raccolgo naturalmente, essendo un democratico, però mi pare abbastanza doveroso ribadire che per quanto riguarda la mia categoria, cioè quella dei medici di base, l'informatica non ci ha devastato così tanto il lavoro. Il nostro lavoro, noi siamo rimasti al palo, siamo un punto di partenza e poi eventualmente un punto di arrivo, diciamo, della malattia e del paziente. Però la parola, l'ascolto, la chiacchiera, il tentativo di spiegare anche con parole comprensibili, perché non è vero che usiamo negli ambulatori della medicina di base dei termini assolutamente incomprensibili per non farci capire, anzi siamo spesso costretti dalla richiesta del paziente a spiegare quello che lo specialista ha semplicemente scritto, magari senza neanche parlare sul referto che ci viene poi sottoposto. Per cui la chiacchiera, la parola, l'ascolto sono ancora strumenti fondamentali. La medicina specialistica poi dopo è un'altra cosa, ma non compete più a noi, insomma, compete appunto agli specialisti. Adesso noi andiamo a sentire i mercati, poi il meteo. 800 24 00 24, parleremo di questa relazione, del linguaggio, delle parole che riceviamo dal nostro medico, delle nostre domande, del tempo della visita. Con uno mi scrive un ascoltatore: è facile confrontarsi, ma quando i medici diventano più di uno e uno in qualche modo, un professionista, mette in discussione il lavoro di un altro, la confusione e anche l'ansia allora salgono. 800 24 00 24, aspetto le vostre telefonate, i vostri messaggi. Vi ricordo come ogni giorno l'appuntamento con il nostro Daily Lab. Essere e benessere. Avete passato un sacco di tempo a studiare i nomi latini delle malattie che i vostri pazienti avevano. Ora è il momento di imparare qualcosa di più semplice in proposito. I pazienti hanno tutti un nome e si sentono impauriti, imbarazzati e vulnerabili. Insomma, sì, sono malati. Quello che vogliono è soprattutto guarire. Ed è per questo che affidano a noi la loro vita. E noi andiamo nella provincia di Padova, c'è Biagio, 800 24 00 24. Biagio, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a lei e ai suoi ospiti. Io volevo, mi viene in mente una storiellina di una donna che va dal dottore e gli dice che: dottore, ho parecchi problemi, quando parlo io nessuno mi ascolta, avanti un altro. Io penso che ci sia proprio un problema legato al fatto che la gente soffre, sta male perché non sa di poter star meglio. Io penso che proprio in base alle ricerche sull'effetto placebo sia proprio importante il concetto di dare fiducia, di dare speranza e di ottenere e di fare un bell'ascolto del paziente, cioè essere veramente in un profondo ascolto, perché questo può permettere veramente dei grandi cambiamenti nel paziente. E questo è quello che io sento di dire, ecco. Grazie Biagio, andiamo a Rosalba che ci chiama da Varese e poi a Piero da Milano e poi commentiamo i vostri interventi. Intanto siete invitati naturalmente a continuare a chiamare. Esperienze positive, esperienze negative, come la vivete sulla pelle? Vi è capitato di confrontarvi con più medici, come scrive un ascoltatore? Avete avuto l'impressione che un medico disfasse la diagnosi dell'altro, buttandovi un po' allo sbaraglio, anche in alcuni casi nella disperazione? Rosalba, buongiorno. Buongiorno e complimenti per la trasmissione. Io sono anch'io un utente e volevo dire che mi allaccio sicuramente alla telefonata precedente, che manca l'ascolto. E in più ho notato che non c'è più la figura proprio del medico di una volta, che era molto preparato a tutte le patologie. Oggi noto che cercano in qualche modo di delegare il tutto agli specialisti, che è giusto per carità per tantissime cose, però non penso che il medico di base non sia in grado di risolvere anche delle piccole problematiche. Ecco, questo io ho notato col mio precedente medico, che poi ho cambiato nel frattempo, ne ho preso un altro e va che meglio. Effettivamente mi ascolta di più e stiamo cercando di risolvere un po' di problemi. Uomo o donna, Rosalba? Qual è il... è un medico uomo o un medico donna? Adesso è uomo. Piero, buongiorno da Milano. Sì, buongiorno, sono un medico di base dall'altra parte della barricata, diciamo. Sarò rapidissimo, purtroppo tutto quello che è stato detto è bellissimo in teoria, ma in pratica diventa molto difficile, perché purtroppo essendo oberati dall'80% di burocrazia da parte delle ASL che richiedono, che ci portano via moltissimo tempo. Altro problema, a volte quando vuoi ascoltare non puoi ascoltare perché il paziente ha già fatto una ricerca su internet, per cui viene e pretende di dire tutti gli esami che lui ha già deciso che dovrebbe fare e eccetera. Mi riferisco alla signora di prima. Sì. Magari si potessero curare i pazienti ascoltando e parlando. Nell'80% dei casi non è così, perché arrivano lì: io voglio andare da questo e questo e questo specialista perché ho letto che è lui che se ne occupa. Do la colpa anche a molte trasmissioni certo. televisive non proprio ad hoc, dove ogni specialista risolve tutti i problemi, poi non si risolvono, li ritroviamo lì delusi più di prima e arrabbiati perché sono stati da 3-4 luminari che non hanno risolto come in televisione. Allora Piero, chiedo ad Andrea Vitali di darle... Andrea, eccomi. Ti senti tirato in ballo? Sento nelle corde vocali del collega, sento un risentimento anche abbastanza condivisibile, però vorrei dire alla signora di prima da Varese che non è più possibile che esista il medico di una volta, perché una volta non esisteva l'ecografia, la risonanza magnetica, la TAC, non esistevano tante cose che oggi hanno modificato in maniera importante la figura, diciamo, del medico di base, del medico della mutua, del medico di condotta, insomma. Una volta il medico di condotta sicuramente si assumeva delle responsabilità che oggi il medico di base non può assolutamente più assumersi. Questo è fondamentale e deve essere chiaro a noi, ma anche a chi fa riferimento a noi. Adesso che avete un po', ci sono degli strumenti diagnostici che aiutano il medico a fare diagnosi, e vedete molto di più di una volta. Allora io mi chiedo a voi: sapere o non sapere? Ci piacciono i medici che dicono la verità e ci deve essere un linguaggio per dire la verità? Professor Remuzzi. Ma io penso che con gli ammalati bisogna essere sempre sinceri senza togliere mai la speranza. L'informazione va data in modo onesto, prima di tutto, nelle forme più accurate e sempre. Una volta non era così, abbiamo sentito parlare una volta, se lo vogliamo mettere sul piano di dati, intorno agli anni 60, il 90% dei medici negli Stati Uniti pensavano che non si dovesse rivelare, per esempio, al paziente malato di cancro la sua condizione. 20 anni dopo, la maggior parte dei medici, il 97%, erano convinti invece che si dovesse dire la verità. In Italia non abbiamo dati precisi, ma è verosimile che sia la stessa cosa, anche perché sempre quelle ricerche lì hanno fatto vedere che quasi il 90% degli ammalati vuole sapere tutto. Il problema è che certe volte la verità crea dei problemi. Intanto la diagnosi non è sempre così sicura e per tante malattie non è così semplice stabilire se davvero ci sono prospettive di guarigione o perlomeno di poter vivere abbastanza bene per un certo periodo. Però anche quando abbiamo delle incertezze, se noi lo facciamo in termini corretti e riusciamo ad aiutare l'ammalato ad apprezzare l'impegno del medico e a stabilire con lui un rapporto che aiuti a condividere decisioni e responsabilità, allora si riesce ad essere sinceri senza togliere mai la speranza. Quindi lei meglio dire... Noi dobbiamo dire, però non dobbiamo dire come adesso si fa negli Stati Uniti. Io questo lo trovo veramente sbagliato ed è interessante che stanno un pochino tornando indietro. Non ha senso andare a dire un malato hai una malattia gravissima e 3 mesi di vita. Questo intanto non lo possiamo dire mai con certezza. Possiamo però aiutare l'ammalato pian piano a rendersi conto della sua situazione e poi rispetto a qualcosa in cui che è stato detto prima, gli ammalati non sono tutti uguali, non esiste una regola. La nostra capacità è anche quella di adattarci in un certo senso alla personalità della persona che abbiamo di fronte senza per questo scendere a dei compromessi troppo grandi. Patrizia da Varese vorrebbe sapere o non sapere. Intanto buongiorno. Buongiorno Nicoletta. Il mio intervento in realtà riguardava l'argomento precedente, sì. Riguardava le qualità che fanno un buon medico di base. Non solo di base, generale. Sì, però il mio intervento riguarda più particolarmente i medici di base, perché una dote sicuramente importante per il medico di base è quella di saper organizzare il suo lavoro. In che senso? Nel senso che spesso gli ambulatori sono dei luoghi di sofferenza, nel senso che tu sai a che ora entri e non sai a che ora esci. Invece io vedo per esempio la mia dottoressa che si è organizzata, ha un orario, una fascia generica, poi alla mattina si telefona, si dice cosa si ha bisogno, si va là, non si perde tempo, e lei giustamente ha sottolineato in questo modo io lavoro meglio perché non ho l'ambulatorio pieno di gente inviperita, riesco a dedicare il tempo giusto al paziente, siamo tutti più sereni e questo secondo me è importantissimo, perché io vedo la mia collaboratrice domestica che poverina si alza alle 6 della mattina per essere tra i primi dal medico e poter essere in orario al lavoro. Trovo che è giusto che il medico sta lavorando, però è anche giusto che le persone che vanno in ambulatorio per farsi curare spesso hanno un lavoro, devono rispettare degli orari e degli impegni, tutto qua. E questo è un intervento importantissimo e così importante che il New York Times nell'agosto di quest'anno ha dedicato un articolo, un grande articolo a questo aspetto che si chiama Il dottore ti vedrà un momento, un bel momento. Il dottore ti vedrà 3 puntini di sospensione, un bel momento. E racconta tutta la storia di queste persone che aspettano delle ore senza una buona ragione e senza peraltro che il dottore dica mai mi scusi se l'ho fatto aspettare. E a un certo punto questa persona che viene intervistata dice ho cominciato a imparare a circondarmi di dottori straordinari che non mi fanno aspettare e che hanno lo stesso rispetto del mio tempo che chiunque dovrebbe avere del loro. E questo è fondamentale. Il dottore, che sia un dottore dell'ospedale, di famiglia, di quello che volete voi, deve avere un assoluto rispetto del tempo degli ammalati. Questo però glielo dobbiamo chiedere, davvero dovremmo imparare in questo senso a educare i medici, a capire che questo del tempo è un problema fondamentale. Io voglio salutare un altro medico, ma è anche un cantautore, Mimmo Locasciulli, buongiorno e bentornato. Buongiorno, buongiorno a tutti voi e agli ascoltatori. Essere e benessere. Allora, Mimmo Locasciulli, buongiorno a lei. Eccoci di nuovo. Si dice che ascoltare musica faccia bene alla salute. Lei oltre a fare musica, essere un cantautore, cura anche un medico ideale. È vero che agli inizi della sua carriera molti dicevano dottore mi canti una canzone? L'ho letto in qualche intervista su internet, ma volevo sapere perché non so, lei era imbarazzato oppure le faceva piacere? Ma sotto sotto mi faceva anche piacere, però la serietà professionale in qualche modo mi suggeriva di stoppare queste richieste simpatiche, affettuose, eccetera. No, la cosa carina era che quando frequentavo più i canali televisivi, a volte le persone anziane vedevano in me una faccia in qualche modo conosciuta, quindi si sentivano più affettuosamente rassicurate. Io ho letto che le hanno dedicato addirittura una canzone, un gruppo, lo stetoscopio del dottor Locasciulli. Sì, devo confessare che non sono mai riuscito ad ascoltare questa canzone. Ho letto anch'io su internet che c'è un gruppo che in un album ha inserito una canzone dal titolo Lo stetoscopio del dottor Locasciulli. Sarei molto curioso di ascoltare questa canzone, ma non ci sono riuscito. Lanciamo un appello allora. Senta, nella relazione tra medico e paziente, mi dia la sua ricetta. Beh, è un rapporto di fiducia, è un contratto morale, quindi insomma bisogna, io ho ascoltato anche l'intervento precedente sulla durezza della situazione americana in cui si dice tu corto, hai 3 mesi di vita, eccetera, eccetera. Ogni paziente ha una personalità, un suo mondo, delle esigenze, un background, quindi bisogna essere bravi a comprendere e forse anche ad essere franchi già dall'inizio nel rapporto medico-paziente, a dire ecco, dovesse mai insorgere una problematica di tipo così, una possibilità di neoplasia, come vuoi che mi comporti, insomma. È un rapporto di fiducia, è un rapporto, un contratto morale, per cui bisogna essere quanto più possibile franchi, sinceri, ma anche delicati ed anche rispettosi della personalità dei pazienti. In linea con noi, immagino che lei lo sappia, ma abbiamo anche Andrea Vitali. Allora, una domanda per tutte e due. Andrea, tu che scrivi, e lo chiedo anche a Mimmo Locasciulli, che è un grande cantautore con un respiro internazionale, non mi è mai venuta in mente l'idea, perché fare il medico è difficile, di abbandonare, no? Di smettere di fare il medico per dedicarvi alla musica, alla scrittura, dato che comunque siete forti in questi campi. Andrea? Ma guarda, no, sinceramente io temo che se mi dovesse venire una tentazione di questo genere, mio padre, al quale l'università è costata parecchi sacrifici, sorgerebbe dalla tomba e mi farebbe fare il giro del lago di Como a calci nel sedere, per cui e poi lì sì che avresti bisogno di un vero medico. Assolutamente. Mimmo? Beh, io no, non ho mai avuto questo problema, perché veramente mi ricordo dall'adolescenza, forse dalla pubertà, ho sempre saputo che avrei fatto il medico. Il dottore. E anche, voglio dire, quando ho avuto momenti di grandissima popolarità, il Festival di Sanremo, eccetera, no, non ho mai pensato di abbandonare la medicina, perché ho sempre avuto la sensazione di buttare 20-25 anni della mia vita dedicata agli studi. Allora, intanto molti ascoltatori, almeno 4-5 ascoltatori contemporaneamente del fan club di Mimmo Locasciulli mi chiedono gli appuntamenti. Beh, noi ci eravamo preparati e non è che, infatti Laura Vanossi mi ha segnato giovedì 13 in concerto a Roma per una serata speciale a Teatro Valle, giusto Mimmo? Sì? Lì c'è questa situazione del Teatro Valle occupato, sì. La cultura insomma viene è malata, un po', sì. è un po' malata, bisognerebbe. E poi il 20 sempre ottobre terrà una lezione concerto presso l'università di Timisoara in Romania. Sì, Timisoara, sì. Ecco, si dice sì. Una università molto molto molto qualificata, e mi fa piacere che nella giornata mondiale, credo, della lingua italiana mi abbiano chiamato per avere questo incontro con i docenti, con gli studenti, e poi c'è anche un concerto, una lezione concerto, insomma, sì. Grazie a Mimmo Locasciulli, al dottor Locasciulli. Dottore, buona giornata, grazie. Buona giornata, grazie per essere stato con noi. E vogliamo commentare rapidamente una cosa, Andrea. C'è stato un ascoltatore che ci diceva che un medico che ci diceva arrivano già con la richiesta di voglio fare questo esame, voglio questa medicina. Siamo un po' invadenti come pazienti, suggeriamo? Beh, a volte sì, però ci sono a volte dei pazienti che suggeriscono in maniera assolutamente esuberante. Io ti ricorderai questa mia affezionatissima paziente, che è la signora Fiorella Vastità. Sì, è la mia preferita. Esattamente, che recentemente mi ha riferito di aver ricoverato suo marito in ospedale per una costruzione intestinale. Ecco, esattamente, e mi ha richiesto poi a controllo una risonanza magnifica. Ecco, lei ecco, in questi casi bisogna naturalmente intervenire e cercare di correggere un po' il lessico della paziente. Per chiudere ti dico che adesso la signora Fiorella Vastità ha deciso, anche per conto del marito, di piantarla lì col lavoro e partirà fra poco per quella che lei ha definito una crociata nel Mediterraneo. Auguri alla signora Vastità, che è davvero forte. Professor Remuzzi, in chiusura, medici che ci confondono, noi quando stiamo male abbiamo bisogno di essere rincuorati, rassicurati, di ricevere una diagnosi, di ricevere poi con le parole giuste, ma tante volte più si girano medici più la confusione aumenta, e soprattutto è molto sgradevole andare da un medico, che è un po' come succede a volte quando si va dal parrucchiere, che ti dice oddio, ma che gli ha fatto questo taglio. Ecco, si ha questa sensazione qua, cioè il medico che in qualche modo confuta o la diagnosi che ha fatto il collega. Non è carino. No, è bruttissimo. In generale, con gli ammalati non si dovrebbe parlare troppo, ma neanche troppo poco, o peggio ancora in troppe persone. Quando si parla in troppi, quasi sempre si dicono cose diverse, anche senza volerlo, e non dobbiamo dimenticare che l'ammalato ha pochi minuti, che il medico ha pochi minuti per parlare con l'ammalato, mentre l'ammalato ha tutto il giorno per pensarci, e se persone diverse gli dicono cose diverse, ha tutto il tempo per interrogarsi sulle inconsistenze. Poi una delle cose peggiori, che poi è responsabile di tutte queste contestazioni che ci sono nei confronti dei medici, dipende dal fatto che, in spregio a tutte le leggi sulla riservatezza, sono pochissimi i medici purtroppo che resistono alla tentazione di parlare male dei colleghi, di parlare persino degli ammalati nei corridoi, nella mensa, di parlare dei colleghi, chi gli ha dato questo farmaco, vorrei proprio sapere chi ha prescritto questo esame. Questa è davvero una cosa terribile, e di nuovo dobbiamo metterci tutti insieme, medici e ammalati, a contestare questo comportamento, un comportamento che non possiamo accettare. Allora, speriamo che questa trasmissione, in cui abbiamo messo un po' il dito nella piaga, aiuti i pazienti a essere dei buoni pazienti ed essere accolti dai loro medici, che siano dei buoni medici, insomma, cerchiamo di coltivare questa relazione. Devo salutarvi perché stiamo sforando. Andrea Vitali, grazie, professor Remuzzi. Grazie a voi. Noi ci sentiamo domani come sempre, però vi rimando alla nostra pagina, dove c'è un'intervista interessante al dottor Giampiero Porzio, che ha pubblicato uno studio dopo il terremoto dell'Aquila. Andate a sentire sulla nostra pagina. Grazie. Essere e benessere.